Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Sono circa 630 milioni di bollettini postali pagati ogni anno dagli italiani. Di questi il 90% viene saldato in posta, il 7% presso i tabaccai, mentre solo il 3% di questi bollettini viene pagato per via telematica, per esempio attraverso l'home banking. Non è difficile immaginare che parliamo anche di centinaia di milioni di spostamenti fisici per andare in posta o dal tabaccaio, parliamo di centinaia di milioni di code e di perdite di tempo. Finalmente però le cose, diamo una buona notizia, questa sera stanno per cambiare, perché c'è un progetto voluto dal CBI, il consorzio che gestisce l'infrastruttura telematica alla base dell'interoperabilità bancaria, che entro la metà del 2014 consentirà potenzialmente almeno di permettere il pagamento online di tutti i bollettini postali, dalle bollette alle multe, agli abbonamenti, alle tasse, che più ne ha più ne metta. Siamo pienamente dentro le linee dell'agenda digitale. Ne parliamo con il direttore generale del consorzio CBI, Liliana Frattini Passi. Buonasera. Salve, buonasera a tutti. Allora, si dica qualcosa di più di questo progetto, che tra l'altro prevede diversi step, con i primi risultati che si dovrebbero cominciare a vedere già da gennaio, no? Dal 1 gennaio 2014 15 banche metteranno a disposizione i propri home banking per consentire il pagamento del CBIL. Quindi il CBIL sarà la funzione con la quale le banche abiliteranno il pagamento online dei bollettini postali. Poi si potranno usare, per dire, anche gli sportelli bancomat oltre all'online per fare queste operazioni. Sì, questo proprio in logica integrata di canale, allora, quindi abbiamo non soltanto ATM, l'home banking, tutti diciamo i canali bancari lo tipici, no? L'iPad, sì. Ecco, quindi all'inizio 15 banche, poi entro 6 mesi dovranno aderire anche tutte le altre, e a questo punto uno entrerà nel suo home banking e potrà pagare una qualunque bolletta. Che cosa deve succedere però perché poi effettivamente accada? Ecco, sì. Beh, ovviamente c'è un lavoro che in questo momento il sistema bancario sta compiendo nei confronti dei grandi fatturatori e delle pubbliche amministrazioni. Ovviamente è un lavoro, direi, già no bifronte, nel senso, da un lato i debitori possono pagare la bolletta, ma dall'altro certo, vi sarà il popolamento di queste utenze su questa architettura del sistema bancario del CBI. Cioè devono aderire coloro che utilizzano il bollettino postale per farsi pagare, devono in qualche modo entrare in rapporto con la propria banca e aderire a questa iniziativa. Ecco, diciamo una cosa, fino a poco tempo fa, fino ad oggi, qualche bollettino postale su alcune banche si poteva pagare, di solito le bollette del gas, dell'energia elettrica, ma perché era così difficile? Che cosa cambia oggi che invece rende più facile questa operazione, tanto che ci aspettiamo di andare, insomma, a pagare tutto online se fosse possibile? No, in effetti oggi il cittadino può pagare qualche utenza di società, ad esempio telefoniche, quindi utilities online, però questo è un servizio cosiddetto monobanca, è logica monobanca. Una banca abilita i propri clienti a pagare, ad esempio, le bollette della telecom di turno se la stessa banca ha contrattualizzato la telecom di turno. Quindi c'è un rapporto uno a uno bilaterale tra il singolo fatturatore e la singola banca, e se questi si mettono d'accordo possono mettere in piedi un servizio. Se non so, con il CBIL, indipendentemente da dove uno ha il conto in banca, potrà poi pagare, no? Esatto, soprattutto non vi è più l'obbligo che la banca che ovviamente offre il servizio di un banking abbia contrattualizzato o meno il fatturatore di turno, perché è la rete del CBI che garantisce l'interoperabilità, quindi vi è una messaggistica tra banche per cui anche la banca di Canigatti, lasciatemi dire, potrà recapitare queste informazioni alla banca invece del fatturatore. Quindi uno può avere una banca rurale, locale, esatto, per intendersi, e questa gli apre a tutto il resto del mondo bancario grazie a questa infrastruttura. Cioè passiamo da un rapporto bilaterale a un'infrastruttura che sta nel mezzo e rende trasparente il tutto. Ecco, quindi se un'azienda che usa il bollettino postale per farsi pagare vuole aderire, che cosa deve fare? Intanto deve ovviamente contattare una delle proprie banche di riferimento, indagare quale tra quelle con le quali ha rapporti commerciali quella che meglio può rispondere alla sua richiesta di servizio. Questo è lato fatturatore, certo, lato emittente. lato ovviamente noi consumatori, noi debitori di multiutility, non dobbiamo fare nulla. Ma niente, noi andiamo sul nostro banking e utilizziamo il servizio della banca e a quel punto abbiamo la possibilità di, con il CBIL, di interrogare e addirittura vedere quali sono i nostri debiti, quindi bollette in scadenza. Questo è molto interessante, cioè sarà possibile, quando questo sistema sarà insomma completo, mettere il proprio codice fiscale dentro la schermata dell'home banking, per intendersi, e a quel punto uno vedrà tutti i debiti che ha, cioè tutte le bollette che si prevede che debba pagare, o meglio tutti i bollettini, non tutte le bollette. Quindi c'è anche un'informazione per l'utente. Quasi da cassetto del debitore, insomma, se vogliamo sintetizzarla in questo modo. Senta, ma costerà anche questo? Ma guardi, il costo è collegato ai rapporti evidentemente commerciali del proprio home banking, quindi un soggetto che ha un contratto di home banking pagherà i suoi livelli di servizio contrattualizzato con la banca. Questo vale sia dal lato utente sia dal lato fatturatore, cioè poi a secondo uno del tipo di contratto che ha con la banca potrà pagare questo servizio, potrà averlo gratis, eccetera, eccetera. Non è automatico né una cosa né l'altra, no? Certamente. Aggiungo anche, credo questo sia poi la logica evolutiva nel consentire al CBIL anche di far pagare ad esempio multe, quindi la possibilità di pubbliche amministrazioni, perché pagare multe, pagare ad esempio trasporti pubblici, eventi, sarà più semplice per il cittadino. Faccio un elenco delle cose che si spera si potranno pagare online: utenze, rinnovo polizze assicurative, abbonamenti, trasporti, rate di finanziamenti, spese condominiali, affitti, rilasci, rinnovi passaporto, patente, revisioni, matricolazione auto, sanzioni amministrative, canone RAI, contributi COF, bollo auto, concessioni statali, IRAP, IRPEF, abbonamenti, ticket sanitari, rete scolastica, buoni pasto, tasse universitari, tributi vari. Credo che ci possiamo lasciare qui. Grazie Liliana Frattini Passi. Grazie a lei per l'intervista. Un saluto a tutti. A domani.